that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch. We're just a peel out the watch. Ciao a tutte, ciao a tutti, sta iniziando un'altra puntata dei Nomi delle Cose e vi raccontiamo la scaletta, come verrà strutturata e di cosa parleremo nella trasmissione di oggi. Nella prima parte volevamo affrontare il nostro percorso verso l'8 marzo, che come dicevamo anche nella scorsa puntata è articolato anche in una serie di tappe. Una di queste è stata il corteo sotto al CIE di sabato scorso e un'altra sarà un'azione che vogliamo fare nella settimana di mobilitazione No TAV, e quindi parleremo del nostro percorso verso l'8 marzo. La parentesi di Elisabetta a metà puntata intitolata Femminismo materialista, e nella seconda parte continueremo questo approfondimento sempre sull'8 marzo, perché faremo un collegamento con una compagna Notav di Milano con cui parleremo del significato dell'autodeterminazione e quindi cosa lega la lotta femminista alla lotta Notav. E per noi è stata molto importante la partecipazione all'iniziativa di sabato contro i CIE. Perché? Perché proprio il percorso di quest'anno, che è imperniato contro il concetto di legalità e per spezzare la normalità che ci viene costruita addosso da questa organizzazione sociale, da questo sistema di potere, praticamente dal patriarcato e dal neoliberismo insieme, il CIE in effetti rappresenta un momento molto alto nella costruzione di questo sistema di controllo e di gestione delle nostre vite. Adesso potrebbe sembrare che appartenga ai migranti, alle migranti, che non sia un problema nostro, ma in effetti la detenzione per condizione è qualcosa che può aggredire chiunque mi veniva, non si è aggredita al sistema. Quindi è importantissimo per noi spezzare quella che può sembrare una normalità, cioè l'esistenza stessa del CIE, e perché poi nessuna e nessuno possa dire mai non pensavo, non sapevo, non credevo, come è stato detto per i lager, per i campi di internamento, da tutti quelli che poi invece li avevano sotto casa e facevano finta di non vedere. Quello che poi ha reso, secondo me, particolarmente importante la manifestazione di sabato è stato anche il fatto che questo corteo è avvenuto quasi in appoggio a una rivolta che stanno facendo loro da dentro. Allora, invece che certo. Sono loro, cioè i CIE stanno chiudendo perché sono gli immigrati che gli stanno dando fuoco da dentro, certo. E quindi la nostra voleva essere una spallata dall'esterno, e speriamo che questa solidarietà attiva sia arrivata anche certo. dentro. A riguardo, per finire questa introduzione sulla giornata di sabato, volevamo leggervi una poesia presa dalla Scarceranda di quest'anno, che si intitola Anna Bruca. Nessuno mai pagherà per averti rubato il futuro. Espulsa, così si scippa un sogno. Rimpatrio forzato, ecco come si ammazza la speranza. La condanna per te è senza appello, deportazione immediata. Il rumore assordante dei motori già sconquassa l'orizzonte e strazia la sottile trama di relazioni e affetti, tessuta con tenacia in questi ultimi 20 anni. Sanguina l'essere tuo negato, barcolla sotto il peso spettrale del passato riesumato da quel fetido foglio di via. No, d'altro tempo, d'altro luogo è il viaggio che tu hai scelto. Oltre il muro, per sempre, un soffio di vento dalle ali di seta, per mari e per terre, senza limiti, senza confini. quindi come seconda tappa del nostro percorso verso l'8 marzo, questa settimana parteciperemo alla settimana di iniziative NOTAV. Questo perché abbiamo scelto come seconda tappa il NOTAV, sempre l'appoggio al NOTAV o comunque la mobilitazione all'interno del NOTAV, non per soltanto per partecipazione, per solidarietà, perché il TAV è un momento di devastazione ambientale, perché costa una marea di soldi pubblici, non solo per questo e non tanto per questo, anche per questo, ma perché fa parte la lotta no TAV della nostra lotta femminista, e adesso vi spiegheremo perché. Abbiamo deciso di leggervi il volantino che accompagnerà appunto la nostra partecipazione alla settimana di mobilitazione. Ve lo leggo. La Val di Susa si oppone da più di 20 anni all'ennesima insensata devastazione ambientale. Il TAV è un'opera inutile, dannosa e costosissima, e la popolazione rivendica il diritto di decidere del proprio destino. Ma è proprio questo che il sistema non intende permettere. Nessuna e nessuno può usare decidere di sé e della propria vita. La repressione della notte no TAV è un monito per tutte e tutti. Chi rifiuta lo stato presente con tutte le sue iniquità e ingiustizie, chi organizza il proprio futuro e propone un immaginario diverso, chi oppone la solidarietà all'individuo, la lotta alla passiva rassegnazione, viene demonizzata e demonizzato, perseguitata e perseguitato, criminalizzata e criminalizzato, tacciata o tacciato di terrorismo, parola magica che etichetta qualsiasi dissenso sociale. Ma noi non ci facciamo paralizzare dalla paura, perché è molto più pauroso sopportare le costanti barbarie quotidiane che combattere per una vita che valga la pena di essere vissuta. Come femministe rifiutiamo il concetto di legalità. Le leggi non sono asettiche e tantomeno neutrali, sono fatte dai più forti e destinate ai più deboli, sono la sanzione formale di un rapporto di forza, garantiscono il diritto di proprietà sopra ogni cosa e permettono al ricco o al potente di sfruttare in modo efficiente e sicuro tutte e tutti gli altri. Oggi assistiamo ad un proliferare di leggi, leggine, ordinanze varie, anche comunali, che hanno la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita fino alle sfere più intime. Dallo Stato di diritto siamo trascinate e trascinati in uno Stato etico. Abbiamo la memoria lunga, sappiamo quanto dolore il feticcio della legalità e della norma ha portato nelle nostre vite. Quando una donna finiva in galera per aver abortito, per adulterio o per il rifiuto a rimanere nel ruolo di cura che le era assegnato. E tuttora siamo in libertà vigilata, niente di quel poco che abbiamo conquistato con le nostre lotte è sicuro, niente è definitivo, e quel che sta succedendo in Spagna con la legge Gallardón ne è una nefanda prova. Denunciamo l'uso strumentale della nostra oppressione. Negli ultimi anni sono state emanate una serie di leggi razziste, securitarie, di controllo sociale, in nome della presunta lotta alla violenza di genere. L'ultima in ordine di tempo è il decreto contro il femminicidio, fatto apposta per introdurre norme repressive contro la lotta NOTAV. Rivendichiamo autonomia e autodeterminazione. Il femminismo lotta per costruire una società diversa e diversi rapporti economici. Combatte contro la divisione sessuata del lavoro e della società tutta, contro i rapporti di subordinazione e la mercificazione della vita e delle relazioni. La lotta delle donne è inscindibile da una critica radicale al capitalismo e alla sua versione neoliberista. Per questo bisogna rompere le regole del pensiero unico e dominante, rifiutare il controllo, non chiedere mai nulla, ma prendere quello che ci spetta. Thank you. Quindi, come avrete ormai capito, il nostro percorso verso l'8 marzo è caratterizzato dal rifiuto del concetto di legalità, e anche questo che ci collega alla lotta in Val di Susa. Questo percorso, diciamo, maturato come collettivo femminista di insistere sul concetto di legalità, viene da qualche mese. Abbiamo anche il 25 novembre dell'anno scorso abbiamo deciso di fare un'azione con queste parole d'ordine, parlando di questi temi. E all'interno invece di questi mesi, come prossimo appuntamento, volevamo anche invitarvi tutte a un incontro separato che si terrà il 1 marzo al Porto Fluviale nel pomeriggio. Alle 18. Con cena a seguire, ma prima dibattito separato, incontro, confronto, eccetera, eccetera, eccetera. E il dibattito, incontro, confronto vuole proprio sviscerare tutte insieme il significato poi della lotta femminista, insomma, che non deve mai essere appiattita su rivendicazioni estremamente settoriali o corporative, né sulla rivendicazione di qualche diritto. Perché anche noi facciamo parte di un collettivo femminista separato, ma facciamo politica anche mista, e così tante compagne che fanno politica femminista, e diciamo, sarebbe un controsenso che in tutti gli ambiti della nostra azione politica rivendichiamo il diritto all'autodeterminazione, e quindi ci riappropriamo di pezzi di vita che ci vengono tolti, e poi invece quando vogliamo agire come donne ci ritroviamo a chiedere allo Stato un servizio sociale in più, piuttosto che la garanzia di un diritto che deve arrivarci da loro. Sappiamo che la lotta politica non è rivendicazione di diritti, non è questo a cui aspiriamo, e quindi neanche la lotta delle donne deve essere rivendicazione, certo, di diritti. Tant'è vero che la prima cosa che ci è venuta in mente è stata proprio la cosiddetta questione femminile, che veniva posta fino agli anni 60, cioè dal secolo scorso fino agli anni 60 si è sempre parlato di questione femminile, e la questione femminile in effetti è era un qualcosa che si rendeva conto della disparità di situazione in cui era ficcata la donna, e rivendicava per questa uguali diritti, fra virgolette, e questa rivendicazione apparteneva a tutte le anime sensibili, se vogliamo chiamarle così, che pensavano che fosse giusto che la donna avesse le stesse opportunità e le stesse appunto gli stessi diritti. Però questo concetto di questione femminile è stato assolutamente scardinato all'inizio degli anni 60, e poi è sfociato nelle lotte degli anni 70, quando al concetto di diritto da acquisire da parte delle donne, a cui tutti dovevano essere sensibili, si è sostituito il concetto di oppressione delle donne. Quindi il concetto di oppressione di donne che cosa significa? Sì, è un passaggio importantissimo, perché scatta il dualismo oppressa-oppressore. Se le donne sono oppresse in una configurazione patriarcale in che le definisce in ruoli precisi, che sono i ruoli sessuati a seconda delle necessità del sistema socio-economico, necessariamente c'è un oppressore. Nel momento in cui viene individuato un oppressore, le donne costituiscono, con un termine, chiamiamolo marxiano, anche se non è che può non essere preciso, costituiscono una classe, e questa classe ha la necessità di autodeterminarsi e di condurre le lotte in autonomia. E comunque l'obiettivo principale non è quello di ottenere diritti in una società che le considera oppresse, bensì di scardinare i meccanismi che perpetuano questa oppressione, e quindi di scardinare questo tipo di società, che in questo contesto preciso nostro è patriarcale e capitalista. I due modelli si intersecano inscindibilmente. Infatti, quello che ci preme sempre sottolineare è che Se invece si dà una lettura emancipatoria, diciamo, della lotta di genere, si rischia, andandosi a infilare in rivendicazioni molto specifiche, appunto, sul singolo diritto, sul singolo servizio sociale negato, eccetera, eccetera, si corre il rischio di essere infiltrate e di, da componenti di donne, da gruppi di donne che non hanno assolutamente lo stesso nostro obiettivo, cioè sono, anzi sono direttamente, partecipando di questo sistema di potere, sono direttamente responsabili dell'oppressione che ci vessa tutti i giorni, cioè gli stessi meccanismi che sono responsabili della nostra oppressione sono quelli che loro perpetuano essendo partecipi del sistema di potere. Quindi che qualsiasi mobilitazione femminista, anche quando va a richiedere, perché magari si subisce un attacco nell'immediato, no? E quindi va a rivendicare il diritto all'aborto libero, eccetera, sono cose che possono chiaramente accadere, possono essere funzionali appunto in risposta ad un'aggressione esterna, ma si deve essere molto chiari sul concetto per cui questo terreno di rivendicazione non deve essere il luogo di alleanze interclassiste, esatto, trasversali a tutte le componenti partitiche o sindacali, perché invece loro sono sempre, diciamo, in agguato, cioè cercano sempre, certo, di infilarsi in qualunque mobilitazione di donne. Ecco, non solo, ma il problema di fondo, che è quello della chiarezza politica, mai è stato così importante come in questo momento, perché il neoliberismo ha una caratteristica che che si legge in tutti i suoi percorsi politici, e che è quella della strumentalizzazione dell'oppressione delle diversità in senso lato, del razzismo e dell'oppressione sulle donne. Cioè questa caratteristica che lui mette in atto sia all'interno, sfruttando per esempio la violenza sulle donne, che e con le famose leggi sul femminicidio, che poi non sono altro che un pacchetto sicurezza, oppure con le leggi, lo stesso pacchetto sicurezza del 2009, oppure cavalcare l'antirazzismo con una definizione di Colette Guillaumin che è molto azzeccata, che dice l'antirazzismo razzista, perché sfrutta proprio l'antirazzismo per proporre politiche razziste. E questo sul fronte interno. Sul fronte esterno questo stesso meccanismo viene attuato per portare avanti le guerre neocoloniali, no? Cioè i diritti negati alle donne, alle diversità, eccetera, eccetera, eccetera. Di conseguenza, questo è fare chiarezza su questo punto è un cardine della lotta politica in questo momento, della nostra lotta politica soprattutto. Would you carve me in a tree? Don't fill my heart with lies. I will love you when you're blue. Tell me, darling, true. What am I to you? Prima di passare a leggervi un estratto di un foglio ribelle scritto dalle donne Notav, volevo anche aggiungere una cosa al discorso di prima, e cioè che proprio perché è un dovere, diciamo, un nostro dovere smascherare queste strumentalizzazioni, possiamo vedere anche in positivo il fatto che questa, la lotta femminista, può diventare anche un canale privilegiato in qualche modo per denunciare e smascherare il ruolo storico che il PD e i sindacati stanno assumendo in questo momento. Certo. Vi leggiamo un pezzetto del foglio Ribelle del collettivo di Barrabelle, che è un collettivo di donne che si trova alla panetteria occupata a Milano. Sono milanesi, fanno questo foglio, hanno scritto un bel pezzo di cui leggiamo una parte sul Notav. Le donne No Tav rifiutano la criminalizzazione del movimento, rifiutano di essere un problema di ordine pubblico, ma affermano con forza di essere una risorsa, un esempio per chi non accetta gli abusi e la violenza di questo sistema, che schiaccia le persone e rapina i territori. In tutti questi anni di lotta il movimento è diventato una comunità critica, consapevole, che sa scegliere e questo fa paura. È di questi ultimi mesi una legge che viene spacciata come un provvedimento contro il femminicidio, ma che, al capo secondo, in realtà inasprisce in modo molto subdolo ma allo stesso tempo molto evidente le norme in materia di sicurezza per la tutela dell'ordine e per la prevenzione e contrasto di fenomeni di dissenso, definito allarme sociale. Quindi non affronta la violenza di genere che il femminicidio esprime, come se bastasse una legge per fermare la violenza e l'omicidio delle donne, ma diventa pretesto per colpire il dissenso e la lotta. In nome di questo le donne valsusine ci chiamano a protestare contro lo stupro e l'autoritarismo militare della loro valle, mettendo in evidenza questo problema in tutto il territorio nazionale. Quindi ognuno nella propria città, nel proprio luogo di lavoro, all'interno della propria famiglia e in generale nella propria vita, deve rifiutare il ruolo di vittima, ma deve resistere, non farsi schiacciare e rispondere in modo collettivo all'inasprirsi delle proprie condizioni di vita, fatta di precarietà ed incertezza. L'estensione della lotta No Tav su tutto il territorio ha una matrice comune, che è la critica ad un modello di sviluppo economico capitalista che non tutela l'interesse di tutti, ma solo di pochi. Chi non lotta ha già perso. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, facciamo una pausa tra una parte e l'altra della trasmissione che continuerà dopo e leggiamo la parentesi che oggi si intitola Femminismo materialista. Sogni, disincanto, fessure. Gli anni del femminismo sono stati gli anni del desiderio. Di fronte alla miseria offerta dal trascinamento dal femminista al femminile, l'accento sul femminismo e sulla nostra liberazione si presenta come altro, come una scommessa, un impegno oltre il presente, oltre al momento attuale che pretende di annullare il conflitto e la ribellione e di piegare tutte e tutti rassegnate e rassegnati al dominio della merce. E a questo progetto, rinnovato ma sempre uguale, di oppressione su noi, a questa dissipazione della libertà e dell'esistenza, le complici tendono a negare le loro responsabilità. Anzi, se ne chiamano fuori e così se ne rendono complici un'altra volta, soprattutto nel banale dispiegamento della vita quotidiana. In prima fila ci sono le femministe riformiste, le socialdemocratiche, le ortopediche del politicamente corretto, psicologhe, assistenti sociali, psichiatre, poliziotte buone, direttori di carceri, PD-ine, le loro appendici se non ora quando e similari, che nella loro non bella moltitudine, nella forza che viene loro dai media e dalle istituzioni, si mostrano e sono particolarmente disponibili alla cultura mortifera che ammorba il presente. Vittimismo, quote rosa, comitati per le pari opportunità sono note di una stessa partitura, sono la favola delle vecchie idee con lieto fine che si ripromette di sottomettere le esistenze concrete dei soggetti reali al rinnovato dominio del capitale e del patriarcato. Ciao. Out that cake, straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enche, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Inutili. Forse non riuscirò a darti il meglio. Più volte hai trovato i miei gesti ridicoli. Come se non bastasse la verità. Stessa. noi, per parlare sempre di noi. E non ho fatto altro che sentirmi sbagliata. L'ho cambiato tutto di me perché non ero abbastanza. L'ho capito soltanto adesso che avevi paura. Forse non riuscirò. Pronto? No, darti il meglio. M'ho fatto i miei conti, ho scoperto che non possiedo di più. Allora, come nostro solito, abbiamo mille problemi nel collegarci telefonicamente con le compagne. Ormai siete ormai stufi lo sapete che noi non ce la possiamo, cioè ci riesce una volta su 15, però noi continuiamo a fare dei collegamenti esterni con le compagne. Io ho premuto questo. Questo non lo devi staccare. No, allora, vado. Però credo che zero. Qui c'è il microfono aperto. Abbastanza. Ed ho capito soltanto adesso. Avevi paura. Pronto? Pronto? Pronto? Sei? Sì, ci sono. Oh, meno male. Dai, ce l'abbiamo fatta. Bene. Ciao. Sì, allora, ci dispiace dei tentativi di prima andati a vuoto, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Quindi siamo, ti presentiamo, siamo in collegamento con una compagna Notav di Milano e ci piacerebbe parlare con lei della lotta delle donne Notav e comunque di quello che hanno pensato, di quello che pensano, di quello che hanno in mente, dei percorsi che vorrebbero attuare, tutto quello che hai voglia di dirci. Va bene, allora innanzitutto saluto tutti e tutte e approfitto, se mi concedete, di salutare Chiara nella speranza che dal carcere di Rebibbia ci senta, anche se la vedo dura. Comunque io l'abbraccio e le mando un saluto. Certo, saremo il 23, no? Ma il 23 a Rebibbia proprio per salutare lei. Ecco, bene. niente. Domenica. Diciamo, ti sento un po' male, comunque ci provo. Sì, sì. E, niente, volevo, cioè, appunto, rispetto a quello che stavi dicendo, no, ascoltando anche prima l'altra parte della trasmissione, quello che secondo me è importante dire della lotta delle donne in OTAV, che poi sono le donne della valle, ma sono anche tutte le donne che stanno attraversando quella lotta, che entrano in relazione con le valigiane, è che questa lotta in sé, ma anche delle donne, è viva e continua a vivere, perché in qualche modo sta creando una comunità altra, no? O se non altro ci sta provando. E perché sta mettendo in campo una discussione, una pratica diversa da quella che è una pratica quotidiana da cui le donne sono uscite, perché questa lotta ha permesso alle donne della valle di uscire dagli schemi quotidiani, per cui da una vita magari in casa, semplicemente a curare i figli, che non c'è niente di male, per carità, o a fare quelle incastrate un po' nei ruoli che questa società ci impone. E ha fatto sì che cominciassero a fare altro, no? A capire che potevano fare altro, e soprattutto che erano capaci di fare altro, e che certe cose potevano farle, potevano riuscire. Quindi io credo che una lotta resiste e rimane viva quando crea una comunità altra. Nel momento in cui questo non viene a crearsi, una lotta, a mio parere, si estingue. E le donne, come le donne della valle, questo stanno provando a fare, tant'è che comunque ancora prima di creare gruppi come possono essere le donne in movimento, che sono ormai create da 2 o 3 anni e che lottano sul territorio su questioni specifiche di genere, hanno comunque prima praticato una lotta femminista, per cui si sono ritrovate dalle cucine alle barricate, cercando di non riproporre modelli maschili patriarcali, perché non era un affermare anche io posso fare quello che fa l'uomo, ma mi reinvento un modo di fare, una pratica, qualcosa che parte da me insieme alle altre donne. Certo. Questa è una cosa che a me in valle ha colpito, alla quale io anche ho partecipato con le compagne, con le valigiane, e quindi questo è un primo punto importante che riguarda la lotta notale. Chiaramente poi il passaggio successivo è quando la lotta finirà, ovvero avremo vinto e il TAV non lo faranno, bisognerà mantenere queste certo. buone abitudini e capire se questa altra comunità la riusciremo a mantenere. Questa è la sfida. Un'altra cosa che ha caratterizzato insomma il muoversi delle donne in valle è il fatto di essere anche molto eterogenee, di confrontarsi, di scambiarsi saperi e conoscenze e esperienze. Questo ha fatto sì che hanno cominciato proprio ad auto-organizzarsi, autodeterminarsi e capire che lo potevano fare. E chiaramente opporsi al sistema TAV non poteva prescindere dall'opporsi all'oppressione patriarcale, che è un'oppressione ancora più vecchia di quella capitalistica. E certo. Mi ricordo che già 2 anni fa, al 25 novembre a Bussoleno, nell'iniziativa contro la violenza maschile sulle donne e sulla terra, questa cosa era uscita anche dalle donne della valle, avevano detto: questa lotta noi la sentiamo molto vicina, perché legata al nostro territorio e alla nostra terra, chiaramente non in una visione conservatrice e tradizionale del suo significato, ma si sentivano molto legate a questa cosa, e gli aveva permesso, così scrivevano loro in un comunicato, se non ricordo male, ci ha permesso di mettere in discussione altro, perché è ovvio che essere contro il sistema TAV non è essere solo contro un treno ad alta velocità, ma mettere in discussione proprio un modello di vita, ed era quello che le donne poi nella pratica stavano facendo lì, anche nelle loro relazioni personali, politiche, all'interno della valle. E infatti è quello che volevamo dire noi nel nostro percorso verso l'ottomanzia, era proprio questo, che non è una lotta contro un treno, ma apre scenari ben diversi, o comunque certo. non è soltanto questo, e questo è soltanto l'inizio, è stato il motivo, ma è scatena un immaginario diverso, ed è proprio questo che non vogliono che prenda piede. Esatto. Certo. È proprio questo, ed è per questo che diciamo in tutti questi passaggi di presa di coscienza e di pratica del movimento NOTAV, da quando è nato oggi, che chiaramente ha fatto tanti passaggi ed è arrivato proprio a fare questa riflessione, è proprio oggi che la repressione quindi è diventata più dura, perché finalmente i valligiani e le donne della valle hanno compreso che non sempre tutto quello che è legale è certo. giusto, e soprattutto l'hanno vissuto sulla loro pelle, per cui certo non si fidano più di uno Stato, hanno capito bene da che parte stare e che quello che hanno davanti è un nemico che poi parla chiaro, perché ha detto: da oggi in poi, con questi arresti notati, chiunque certo. si opponga a uno stato oppressivo, a un terrorista, insomma. Ma è una infatti cosa molto pericolosa. Il livello di comprensione dello Stato della lotta no TAV, perché lo Stato ha molta chiarezza rispetto a quello che è la lotta no TAV. E il livello di comprensione, questa chiarezza che lo Stato ha nei confronti della lotta no TAV è chiaro proprio quando loro cominciano a usare il termine terrorista. Ti dà il metro del significato che la lotta no TAV si porta dietro quando loro hanno la necessità, cioè alzano il tiro e la trascinano sul terrorista, no? Certo, anche perché se come io sono sicura la lotta no TAV vincerà, chiaramente diventa un precedente tra virgolette, per cui è possibile farlo, no? E quindi certo, per loro è troppo rischioso, certo, dire lasciamo che è chiaro. Diciamo che prima di queste accuse così gravi era passato anche il decreto femminicidio, che voglio dire, che avete citato anche prima voi, e mi vengono in mente appunto cose che ha scritto Nicoletta in proposito, cioè lì si tratta proprio di mettere nero su bianco il monopolio della violenza sulle donne, sulla terra, lo facciamo noi, ce l'abbiamo noi, è riservato a noi, ma nello stesso tempo diciamo siamo noi, che è lo Stato che dice difendo io il territorio. Certo che se lo fa come lo sta facendo in Valsusa siamo a posto. In più si usa una legge sul femminicidio, che comunque abbiamo già visto i risvolti e il significato che ha, per reprimere dei movimenti che vanno oltre la lamentela, no? Per cui qui vengono identificati alcuni territori, le donne come questi soggetti deboli, no? Che vanno difesi, ma certo se la donna deve pensare, la valsusina, di essere difesa da coloro che con le divise addosso le picchiano, le gasano, le reprimono, è ovvio che è una cosa che non si può più accettare e che si è capito che non va bene. Ecco, dico questo però specificando che nel senso parte da una concezione comunque non vittimistica, perché è vero sì che la terra, così come le donne, sulla terra e sul corpo delle donne è stato fatto di tutto, lo si continua a fare, lo si usa come strumento per legiferare e far passare cose aberranti come come accuse di terrorismo piuttosto che altro, però io rilancerei anche un po' a tutte le donne, a tutte le compagne comunque di uscire anche da questa visione di vittima per cercare di autodifenderci e autodeterminarci, no? Visto che prima si parlava proprio di questo, per cui se noi la difesa non vogliamo più che sia delegata allo Stato tramite i suoi uomini in divisa, perché abbiamo visto bene che sono il nemico in Valsusa ma non solo lì, allora dobbiamo anche auto-organizzarci, autodeterminarci, cominciare a praticare altro, no? In questo senso uscire un po' da questa visione vittimista. E queste riflessioni sono uscite anche quest'estate, quando comunque c'è stato il corteo a Bussoleno, quando una brutta occasione in cui una compagna, Marta, fu molestata durante un fermo, per cui lì ci siamo guardate in faccia, c'è stato anche poco da dire, siamo scese in piazza con parole d'ordine ben precise e abbiamo sfilato a Susa, dove c'è una città militarizzata e le donne, e non solo le donne valsusine, sanno cosa vuol dire quella militarizzazione. Così come poi per esempio il 9 novembre scorso, in tutto quello che è stato il percorso che è arrivato il 25 novembre, alle due giornate del 25 novembre in Valsusa, c'è stata una bella assemblea che era aperta a tutti, ma poi in realtà eravamo solo donne, in cui queste cose sono uscite, quindi vuol dire che c'è una presa di coscienza dalle giovani fino alle meno giovani di quello che sta accadendo lì e di cosa rappresenta. Quindi diciamo, io posso dire dal mio punto di vista che sicuramente non è che la Valsusa è liberata, è libera, non ci sono più meccanismi di sessismo, macismo o logiche patriarcali, perché sarebbe falso e non corrisponde alla realtà, però sicuramente c'è un'accelerazione di una riflessione, di una pratica diverse, ed è chiaro e si è visto che comunque le donne lì hanno cominciato a scardinare tutte queste dinamiche, uscire dai loro ruoli e capire che si può e che è anche bello e che ci riesce. Quindi ecco, questo è un po' quello che vivo io, magari in questo momento meno, ma che ho vissuto e che spero di vivere ancora in Valsusa. Pronto? Pronto? Mi sentite? Era una riflessione, quindi forse posso farla anche senza il collegamento, perché tanto lei forse ci sta sentendo sì. In radio. Una delle cose che volevo sottolineare di tutto quello che ha detto la compagna è proprio che per uscire fuori dalla logica del vittimismo forse dobbiamo anche uscire fuori da un concetto di misura un po' travisato che abbiamo, cioè è vero che quando si abbatte la repressione, quando incominciano ad uscire etichette vecchie e stantie che conosciamo e riconosciamo tutti come terrorismo, eversione, associazione sovversiva, eccetera, questo dà la misura e dà un po' il polso di quanto un movimento, una lotta faccia paura allo Stato, però questo non può essere la misura della nostra forza, mentre invece la misura della nostra forza, la forza di un movimento, secondo me sta proprio in quello che diceva prima durante il collegamento, e cioè sulla capacità di un percorso politico, di una lotta che sia vertenziale, che sia un'occupazione, che sia un percorso territoriale, di qualunque natura sia, vince e si rafforza nel momento in cui crea una comunità. Una comunità all'interno della quale, rifiutando, partendo dal rifiuto di qualcosa di esterno, si possa incominciare invece a costruire un immaginario collettivo e praticarlo quotidianamente, ed è questo appunto, sì, si può fare, avviene nel momento in cui la lotta sedimenta in questo senso, ed è vero che la sfida nel momento in cui il movimento NoTav vincerà sarà quella appunto di continuare in questa vita di comunità e in questa autodeterminazione collettiva, però è quello che mi ha appunto, quello che volevo sottolineare, che forse dobbiamo uscire, cioè è un vittimismo anche quello di misurare la nostra forza sulla repressione che ci arriva addosso. Abbiamo invece cose in positivo su cui rimarcare la nostra forza e su quelle dobbiamo insistere. Certo, ci dispiace che sia caduta la linea, però speriamo appunto, come diceva Marg, che ci stia ascoltando ancora la compagna di Milano, e ci facciamo anche riferimento a quello che aveva accennato anche lei e che già noi volevamo leggere, che è il contributo che Nicoletta Poidimani ha fatto all'interno di un'iniziativa proprio preparatoria alla settimana e alla mobilitazione NoTav del 22 febbraio. Vi leggiamo dei pezzi, e il contributo per intero lo potete trovare sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org, e si intitola Il decreto femminicidio, note su una confusione funzionale. E a un certo punto cominciamo a leggere, e dice: la logica che sta dietro questo decreto è ancora una volta quella dell'emergenza e dell'allarme sociale. Le norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, così recita, sancite nel capo secondo del decreto, non sono che il rafforzamento dell'autoritarismo dello Stato e del suo monopolio della violenza. Disciplinando le forme di resistenza e di reazione contro la violenza sulle donne e sulla terra, si pretende da una parte che il dissenso sia espresso con modalità che non disturbino in alcun modo i progetti di devastazione territoriale, e dall'altra che le donne rinuncino ai percorsi di autodeterminazione, delegando ai servitori dello Stato la propria sicurezza. Tutto ciò nonostante tanto in Val di Susa quanto nelle zone terremotate, nelle strade, nelle caserme e nei CIE, non di rado uomini in divisa abbiano usato il proprio potere per abusare sessualmente delle donne stesse, italiane o immigrate che fossero. Ma ciò che di più paradossale traspare dal decreto femminicidio è una velata equiparazione della lotta NoTav alla violenza di genere. D'altra parte, lo stesso procuratore Caselli tra il 2012 e il 2013 si era richiamato allo stupro, fra virgolette, agli stupratori, fra virgolette, parlando della lotta in valle. Ne è una dimostrazione la dichiarata necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, tutto questo è virgolettato, che si traduce in sostanza in un mero rafforzamento delle politiche securitarie, giustificato peraltro con la vittimizzazione di soggetti considerati deboli, tra virgolette, anziché indeboliti. Politiche che da una parte affrontano solo formalmente il problema della dominante cultura femminicida e dall'altra militarizzano siti in cui si pratica l'ecocidio in nome del profitto. Ed ecco che dietro il dichiarato interesse strategico, tra virgolette, emerge il vero interesse, meramente economico, esplicitato anche nella formula della sicurezza integrata per lo sviluppo. Vi rimandiamo quindi al contributo per intero sul nostro blog e ci risentiamo fra pochissimo con gli appuntamenti. E quindi volevamo ricordarvi gli appuntamenti di questa settimana rispetto alla mobilitazione NoTav. Allora, giovedì 20, assemblea popolare alle ore 17, piazzale della stazione Tiburtina. Sabato 22 febbraio, il corteo per Valerio Verbano, Valeria vive, la rivolta continua, dalle 16 in via Montebianco, in cui ci sarà ovviamente uno spezzone NoTav. Domenica 23 febbraio ci sarà il saluto da parte di tutti i compagni e le compagne a Chiara, che è detenuta nel carcere di Rebibbia, e l'appuntamento è alle ore 15 al Pratone in fondo a via Bartolo Longo. E vi ricordiamo anche i nostri appuntamenti, che sono quelli appunto